Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di due grandi testimoni del nostro tempo, due grandi giornalisti italiani. Il primo è Mario Pirani, uno dei fondatori di Repubblica, di cui è attualmente ancora collaboratore editorialista. La carriera di Mario Pirani è raccontata nel libro Poteva andare peggio, mezzo secolo di ragionevoli illusioni, Mondadori, 430 pagine, 20 euro. La carriera di Pirani è stata importante, ma in fondo sui generis. Pirani approda al giornalismo quasi per caso dal Partito Comunista, al quale si era iscritto negli anni della Resistenza. A un certo punto il partito lo dirotta, per così dire, a fare appunto il giornalista all'Unità. La fede comunista impallidisce sempre di più, soprattutto negli anni successivi ai casi di Ungheria, quando ci sarà una rottura drammatica. E a quel punto la carriera di Pirani è una svolta. Il giornalista infatti ha conosciuto nel frattempo Enrico Mattei, questi gli chiede di lavorare con lui a Leni e Mario Pirani avrà una lunga carriera a Leni come manager, dalla quale poi uscirà per riprendere la sua carriera dopo qualche anno. Nel libro emerge la ricchezza delle esperienze che ha avuto questo grande giornalista, un'esperienza segnata anche dalla forte connessione tra il mestiere svolto e il retroterra culturale, la passione civile e politica che ha animato tutta la vita di Pirani. Ma di questo adesso parliamo con l'autore. Buongiorno a Mario Pirani. Buongiorno. Mario Pirani, cominciamo dalla fine del suo libro. Come mai il suo libro si arresta al 1986? In fondo in questo ultimo quarto di secolo da raccontare ce ne sarebbe stato pure. Ma io ho voluto raccontare la vita di un bambino, di un giovane, poi di un uomo della mia generazione attraverso gli avvenimenti storici a cui abbiamo partecipato. È stato un secolo tumultuoso, un mezzo secolo tumultuoso in cui mi sono trovato coinvolto. L'ho chiuso con il mio rientro a Repubblica perché da allora io fondamentalmente ho fatto il giornalista. Le cose che avevo da dire le ho scritte sul giornale, non avevo più cose da raccontare, secondo me, anche perché io andò, nel libro lo spiego, trovo che le memorie dei giornalisti siano molto spesso delle manifestazioni inutile narcisismo. E in effetti in questo suo percorso di vita ci sono degli eventi che segnano anche una generazione. Innanzitutto, per esempio, ricordo l'esperienza, la lunga, convinta, appassionata esperienza col Partito Comunista e poi la rottura anche piuttosto traumatica con il marxismo e col Partito Comunista. Ecco, nel suo percorso intellettuale, nella sua formazione, nella sua stessa professione giornalistica, quanto ha pesato questa rottura, questa esperienza prima e poi la rottura col Partito Comunista? Ha pesato molto. Deve tener conto che io oggi ho 85 anni, sono nato nel 1925, ho vissuto buona parte del periodo fascista. Mio padre fu mandato al confino, ci furono le leggi razziali, la mia era una famiglia ebraica e tutto questo mi ha segnato profondamente. L'esigenza della lotta contro il fascismo e la paura che vincesse il nazismo hanno dominato la mia adolescenza. È chiaro che lo sbocco per molti di noi della mia generazione in quelle condizioni, lo sbocco nel Partito Comunista è stato segnato da una grande contraddizione, cioè il partito che più a nostro avviso, come fu nei fatti, si batteva per la libertà, era nello stesso tempo un partito con una ideologia totalitaria. Era una contraddizione che però era risolta nei fatti, sia nella guerra di liberazione, sia subito dopo nella fattura della Costituzione, nelle prime lotte per dare un quadro costituzionale alle masse estremiste del bracciantato o degli operai italiani. Dunque siamo vissuti con abbastanza consapevolezza in questa tradizione, con la ragionevole illusione, io riparlo di ragionevole illusione che della nostra generazione, con la ragionevole illusione che ce l'avremmo fatta a fare un partito riformista, diciamo un partito ispirato alle idee di Amendola, a tornare all'unità dei socialisti democratici italiani, illusione che si è rivelata fallace. Quelle sono state le motivazioni che mi hanno fatto entrare nel Partito Comunista, quelle che mi hanno fatto uscire sono stati i traumi dell'Ungheria e delle altre aggressioni sovietiche ai paesi vassalli, e il fatto che in fondo, malgrado alcune prese di distanza, il Partito Comunista restasse sostanzialmente fedele al modello di partito leninista, cioè un modello di partito verticale in cui c'era una democrazia interna, c'era un dibattito interno, ma poi c'era una soluzione che veniva dall'alto. Ma direi che la cosa che alla fine mi ha staccato dal Partito Comunista è stata la scoperta filosofica che il finalismo, cioè avere come punto di obiettivo finale un mondo costruito su una base etica, con un'idea che il bene apparteneva a noi che costruivamo quel mondo e ci illudavamo di costruire la storia, era quanto di peggio si potesse immaginare, perché chi crede di interpretare il bene è disposto a compiere qualunque defandezza o a giustificarla. Senta, in questo lei scrive nel libro di essersi distinto rispetto a Eugenio Scalfari, che già nel 1970, quando entrambi avete dato vita a Repubblica, a metà degli anni 70, dava per compiuta, lei scrive, la legittimazione democratica del Partito Comunista. Eugenio, come tutti quelli che non sono stati comunisti, secondo me non aveva la percezione fino in fondo della natura profondamente autoritaria, totalitaria del comunismo, e pensava, come all'inizio lo pensavo anch'io, che seguissero un po' lo schema giacobino. Prima c'era il feudalesimo, è caduto, è venuta poi la rivoluzione francese, la rivoluzione francese ha avuto degli estremismi, ha avuto il terrore, ma poi da quello è nata la libertà borghese, le repubbliche parlamentari, dunque come una specie di determinismo della storia. Ecco, direi che al fondo Eugenio dato un'interpretazione più legata a fatti singoli e poi alla necessità che il Partito Comunista si legittimasse, ma pensando di legittimarsi attraverso l'accordo con la sinistra democristiana, respingendo sempre invece la rimessa in discussione della nascita stessa del Partito Comunista, nascita che avviene in rottura col socialismo democratico nel 1921 e che tale è rimasta l'antisocialismo, lasciamo perdere le polemiche tra Craxi, ma l'antisocialismo del Partito Socialista va da Turati a Nenni, persino direi al resto, ai residui socialisti rappresentati non so da un Giuliano Amato o da un Giorgio Ruffolo, accettati sì, ma sempre in una condizione minoritaria. A proposito di sinistra democristiana, lei dedica gran parte del libro, una buona parte del libro, a un'esperienza molto importante nella sua vita, che è stata l'esperienza con Leni. A un certo punto lei cessa di fare il giornalista, fa il manager e conosce Enrico Mattei e lavora con lui e poi con Leni. Questa esperienza che cosa ha rappresentato anche nella sua vita professionale? Quando sono uscito a un certo momento, io mi sono illuso per un certo tempo di poter condurre una battaglia politica interna aperta nel PC. Poi ho avuto l'impressione che la libertà che mi veniva lasciata di scrivere, per esempio, degli articoli eterodossi sull'Unità era una libertà apparente, un alibi per dimostrare che c'era libertà di discussione. Come ho ripetuto, poi mi sono reso conto, almeno così ho pensato, che questo fosse un alibi, e ho detto non posso più restare. Ero molto amico di Giorgio Ruffolo, che era un braccio destro di Enrico Mattei, e lui mi offrì di entrare a Leni, cosa che io accettai. Poi la cosa tardava, io detti le dimissioni, ci fu un'assemblea tumultuosa all'Unità per la mia uscita, e alla fine poi Mattei mi assunse e mi dette un compito affascinante, quello di tenere i rapporti tra lui e Leni e le forze di liberazione che conducevano la guerra per l'indipendenza algerina contro i francesi. Secondo quella linea che Mattei aveva intuito, che bisognasse allearsi con i paesi del terzo mondo perché stavano diventando indipendenti e non avrebbero accettato ancora il dominio delle sette sorelle petrolifere. Questa è stata la mia esperienza dell'Eni, che è durata fin dopo la morte di Mattei, per un certo periodo con Cefis, e poi ruppi perché Cefis voleva che io diventassi uno dei tanti ben pagati personaggi tra la politica e gli affari. Cioè, lui mi offrì addirittura di farmi eleggere deputato dandomi una rete regionale di distribuzione di benzina per conquistare una clientela in cambio che tenessi i rapporti tra lui e il Partito Socialista. Io, o per ingenuità o per, come dire, per una mia innata diffidenza, rifiutai. Bene, grazie a Mario Pirani, autore di Poteva andare peggio. Buona domenica. Grazie. L'altro testimone è Tiziano Terzani, di cui Longanesi pubblica un nuovo volume della serie che sta pubblicando sul Grande Giornalista, e cioè Un mondo che non esiste più, 304 pagine, 22 euro. Questo è un libro soprattutto fotografico, dedicato a mondi che davvero non ci sono più, per esempio la Cina dell'immediato post-Mao, che comincia ad aprirsi all'Occidente. Quando Terzani ci arriva nel 1980, però, la Cina è ancora fortemente impregnata degli antichi deliri ideologici, come descrivono queste righe scritte appunto al suo arrivo a Pechino. Mi fu subito chiaro che la realtà era meno affascinante dei sogni. Andai a cercare quella speciale forma di socialismo che si diceva fosse stata costruita in Cina, ma non trovai altro che un esperimento fallito malamente. Non finisco mai di meravigliarmi quando vedo sulla piazza Tiananmen i ritratti di quei soliti quattro europei con la barba: Marx, Engels, Stalin, Lenin, assassini utopisti che dovrebbero ispirare i cinesi. Com'è possibile che alla ricerca di un modo di vivere nuovo, la Cina millenaria, quella della immensa cultura, abbia a rifarsi a due tedeschi e due russi, di cui uno certamente fra i più grandi assassini della storia? Eppure è così. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Facciamo adesso un viaggio più domestico. Andiamo a Mamiano di Traversetolo, alla Fondazione Magnani Rocca, dove fino all'8 dicembre è in corso la mostra Passione e Realtà. Questa è una mostra dedicata a Renato Guttuso e prepara le celebrazioni del centenario del grande pittore, che cadranno l'anno prossimo. Guttuso infatti visse tra il 1911 e il 1987. In questa occasione vi segnalo il libro di Maria Antonietta Spadaro, Renato Guttuso, è pubblicato da Flaccovio, 180 pagine, 14,50 €. L'autrice è un'architetta e storica dell'arte che ci dà qui non soltanto una descrizione della vita, ma ci spiega alcuni aspetti più o meno controversi della sua arte, del suo percorso anche di vita. Per esempio si parla del passaggio di Guttuso dal fascismo al comunismo. Nel 1934 Guttuso scriveva: Mussolini dimostrò e diede già da tempo avviso di alcune idee che sono base del suo sistema di governo e che sono quelle che oggi circolano naturalmente nel nuovo clima estetico. La nostra gioia più grande è l'accorgerci ogni istante di andare con Mussolini troppo d'accordo. Così nel 1934, poi, grazie all'antifascismo, Guttuso diventa lui stesso antifascista e seguace fedelissimo del Partito Comunista. Nel libro un'altra pagina interessante è quella dedicata al ruolo che Guttuso assunse nella polemica negli anni 50 tra realisti e astrattisti. Continuiamo adesso il nostro viaggio artistico per l'Italia con Vittorio Sgarbi, che ha pubblicato il libro Viaggio sentimentale nell'Italia dei desideri. Bompiani, 350 pagine, 20 euro. Sgarbi qui parte dall'insegnamento di Roberto Longhi e infatti ci dice che non ci vuole spiegare ciò che si vede, ma rivelare ciò che non si vede. E lo fa con questo viaggio in Italia, dalla Padania, come scrive lui, alla Sicilia, con una lunga appendice ligure. È un viaggio dunque per l'Italia che viene presentata nei quadri, nelle architetture, nelle opere d'arte. E Sgarbi ci invita con quest'opera a riscoprire opere spesso trascurate o ignote, ovvero a interpretare con occhi nuovi capolavori peraltro notissimi. Per esempio, ascoltate queste righe in cui ci dà una particolare interpretazione del Caravaggio. Ciò che Caravaggio aggiunge all'osservazione della realtà, già così intensa e perspicua, degli ammirati maestri veneti e lombardi e al loro pathos intimo e drammatico, è la sensazione di quell'attimo decisivo che Henri Cartier-Bresson indica come peculiare della fotografia. Il soggetto non è in posa, ma la realtà si compone fino a trovare il momento decisivo, appunto, in cui realtà e azione esprimono il loro significato profondo. E ciò che sorprende in Caravaggio è appunto la sensazione dell'imminenza, dell'urgenza degli episodi, senza artificio, senza un ordine dato, come se fossimo davanti a una fotografia. Caravaggio inventa la fotografia, riproduce la verità delle cose in una sintesi così immediata che annichilisce ogni riflessione manieristica e ogni ricerca di significati metafisici. Egli dipinge ciò che vede, non ciò che pensa. E anzi, pensa ciò che vede. Arte e scienza coincidono. I significati simbolici sono nelle cose o nella interpretazione della luce. Così, quando Cristo entra nella stanza dove Matteo sta con i suoi amici a bere e a giocare, capita qualcosa che il Caravaggio avverte nella spontanea reazione del prossimo apostolo. Cristo lo indica, Matteo sembra dire «cerchi me». Importante è nel viaggio di Sgarbi il capitolo dedicato all'arte veneta, e allora restiamo su questo tema con uno dei maggiori studiosi dell'arte veneta, e cioè Lionello Puppi, che ha pubblicato Il re delle isole fortunate e altre storie vere tra le meraviglie dell'arte. L'editore Angelo Colla, 190 pagine, 18 euro. Puppi qua scava nelle vite dei grandi artisti o nelle vicende delle loro opere, trovando sempre fonte per straordinarie sorprese. Coglie l'autore alcuni particolari di vite o di opere d'arte per ricavare degli spunti che diventano, come dice la stessa copertina, delle detective stories. Per esempio la storia da cui si avvia il libro, quella di un re o di un capotribù che era stato catturato da Cristoforo Colombo, da questi graziosamente regalato ai sovrani di Spagna, da questi a loro volta dirottato alla Repubblica di Venezia, che parcheggia l'ex capotribù a Padova, dove verrà ritratto in un affresco dei primi del Cinquecento dal pittore Giulio Campagnola. E poi ci sono tante altre storie in questo libro di Puppi e protagonisti, per esempio il Palladio, che incontriamo in questo dialogo immaginario. Bentornato, maestro, lo apostrofo. Sobbalza. Sono tuttavia di fretta. Mormora. E sembra quasi un sospiro. Non è incoraggiante, Palladio. Conviene forse cercare di blandirlo, toccando al tempo stesso un nodo sostanziale. Maestro, non v'è alcuno tra i maggiori architetti attivi oggi, e son passati giusto 5 secoli da quando nasceva a Padova, che non dichiari il proprio debito verso la sua lezione. Se non mi inganno, ebbe una volta ad auspicare che le sue fatiche non fossero state invano, per chi sarebbe dopo di lei venuto. Si sente dunque appagato, confortato, lusingato? Scatta, volge il capo verso di me, mi squadra. La voce gli si fa ferma e forte. Millantatori, nulla hanno inteso. S'accomoda meglio sul gradone, accavalla le gambe, affonda una mano nella barba e continua a fissarmi. Ma la voce cala di tono, divien pacata. Non è stata di vanità la mia lezione, ma impegno e voto di una lunga fatica e gran diligenza ed amore che ho posto per intendere e praticare la promessa senza curarmi mai del plauso e della ricchezza, e sforzandomi solo d'essere uomo, il quale non solo a se stesso deve essere nato, ma ad utilità anche degli altri. Il dono che Iddio mi ha elargito di poter fabbricare per il giovamento universale è stato il solo vero premio d'ogni sacrificio speso nell'investigazione delle reliquie e degli antichi edifici e nel pigliare esperienza dalle fabbriche fatte dagli altri. Perché da quelli avvisati si può più facilmente determinare ciò che sia concio ed espediente ai nostri bisogni. E cosa vedo intorno a me adesso? La scancellatura, la cassatura deliberate della memoria per erigere sulle sue polveri, a gara di chi le fa più indiavolate, stramberie senza ordine e ragione, strani abusi, barbare invenzioni, superflue spese. Il confettino. Ai lettori più grandicelli segnalo il caso Biancaneve col K di Ugo Vicic, illustrato da Federico Appel, pubblicato da Nuove Edizioni Romane, 118 pagine, 9 euro. È un libro che si ispira naturalmente liberamente alla fiaba di Biancaneve, che diventa qui la figlia di un commerciante di tessuti e che sarà al centro appunto di un giallo, di un poliziesco che verrà risolto brillantemente. E con questo ringrazio Margherita in redazione, Fabio Contadori in regia.